www.radio3pod.rai.it. Eh sì, buongiorno, ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio, cioè pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Eh sì. Succede, per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si registrano novità di rilievo, Cappa e Drago discutono di monarchia. Oh, Drago, lo vedi? Almeno su una cosa siamo d'accordo. Almeno su una cosa, la monarchia. Siamo tutti e due monarchici. Sono contento. E al giorno d'oggi, accidenti, a dire che sei monarchico, ti guardano tutti un po' strano. Sì, perché qui in Italia c'è stato il referendum monarchia-repubblica che veniva dopo la resistenza e la liberazione, allora sembrava che fosse un referendum fascismo-democrazia. È tutta ideologia, K. Certo, e le ideologie, grazie a Dio, sono morte e sepolte. E buona notte. Ma cosa state dicendo, Pollastri? Fatti reazionare. Ecco, invece arriva qui il modello dei progressisti. Progressista non c'è tua sorella, Appunto. Hai capito? Io sono libertario, è tutta un'altra cosa. Sei libertario, cioè sei anarchico. Noi invece siamo due monarchici. Le parole si assomigliano, ma vogliono dire due cose molto diverse. Molto diverse. No, ma adesso mi dovete spiegare cosa vuol dire essere monarchici oggi in Italia. Ma no, niente, noi siamo monarchici, però non amiamo la famiglia reale italiana. Tutto ci mancherebbe altro. Noi siamo monarchici in astratto e diciamo... Come sarebbe bello! Se in Italia ci fosse un re serio! Presentabile! Determinato! E che la politica facesse tutti i suoi disastri lasciando intatta la credibilità della casa reale. Mi sembrate due gandule. Gandula, Pollo. Drago ha ragione, in Italia manca una figura che rappresenti l'unità nazionale. Ma come? Cioè, in teoria sarebbe il presidente della Repubblica, no? Sì, ma adesso abbiamo un Wafer come presidente. Un napolitano era la nocciola, ex partito comunista. E cioè, prima c'era Ciampi, che però si sapeva che era democristiano e che non vedeva l'ora di andare in pensione. Poi prima ancora c'era Scalfaro, che ha fatto politica fino alla fine. Prima ancora Cossiga, che non rappresentava certo l'unità nazionale. Le scritte sui muri inneggiati a Cossiga ci sono sempre state. È vero, come viva il con la K e le stesse naziste, siamo d'accordo. Esatto. Comunque esistevano. Insomma, Paolo, anche tu da anarchico non puoi apprezzare poi molto la Repubblica così com'è, dai. Su questo siamo d'accordo, E allora? Bisogna buttare giù il sistema. Oh. Ma sul dopo abbiamo idee diverse, Chi se ne frega del dopo? Cominciamo a buttare giù tutto. Dai, cominciamo da qua. Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso, e cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle? So che un pollo mai siederà tra gli dei dell'Olimpo e mai farà una palla di pelle con la pelle di Apelle, perché un pollo per sempre pollo resterà. Yes, it's cruel. Yes, it's cruel. Kappa, ma quando al posto della regina Elisabetta ci sarà Carlo, l'inno dirà sempre God Save the Queen? Vabbè, per forza. God save our chick. Salve, buona spia. Sono il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo. Questo è un appello al signor Faraday. Signor Faraday, noi capiamo l'importanza dei suoi esperimenti e capiamo anche che un uomo con la sua sfera di interessi non va giudicato al pari degli altri uomini. Ma ultimamente lei sta esagerando. Sfera! Le sue urla e le sue imprecazioni filtrano attraverso le spesse mura della fabbrica. Sfera! Sfera! Sfera! Signor Faraday, torni dalla sua famiglia. Signor Faraday, si tagli i capelli e le unghie. Signor Faraday, lasci in pace il suo assistente e la smetta subito di lavorare alla sua gabbia. Signor Faraday, signor Faraday, signor Faraday. La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uccidere! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La fabbrica di polli! Tu sei come il cane di Pavlov, eh? Il cane di Pavlov! Ma non il cane di Paolo, il cane di Pavlov! Pavlov! Vedi la pasta asciutta e perdi le bave? Pasta asciutta! Un pollo che mangia la pasta asciutta, ma dove si è mai visto? Pasta asciutta! No, perché tu l'insalata di bruchi pelosi, no, quella invece ti fa schifo. Sì. Ma io te l'ho sempre detto, tu non sei mica normale. Sì. Noi polli mangiamo becchini e animaletti da cortile. Mangiamo anche i ragni se siamo fortunati a trovare uno bello panciuto, eh? E poi i grilli, le mantidi religiose. I calabroni? Eh no, eh? I calabroni me li lasciali stare, eh? E come i calabresi? E questo lo dice anche Oliviero Toscani, eh? Lasciate stare i calabroni perché con loro non si può trattare. Quelli hanno un pungiglione, eh? Poi, ma non come le vespe, eh? Quelli hanno un pungiglione da superdotati, eh? Ecco, guarda che è così, eh? Ma non tu, Tarek, tu sei mini dotato, eh? E di cervello, dico, eh? Cerebralmente mini dotato. Ecco, bravo, Tarek, vedi, sei capito. Adesso smettila con la pasta asciutta e mangiati sto bruco caramellato. Pasta asciutta! Pasta asciutta! Pasta asciutta! La fabbrica di polli. Ma scusa, anche i cinesi sono i nuovi padroni del mondo. Però anche loro, quando i dirigenti cinesi vanno in Inghilterra e devono essere ricevuti dal primo ministro e dalla regina, sono lì davanti alla regina, anche i cinesi si sentiranno in imbarazzo. No? Beh, certo, sì. Invece quando vengono in Italia incontrano Prodi e Napolitano, cioè il paragone non regge. Perché la nostra regina è il Papa. Come il Papa? Quando i cinesi vengono in Italia, incontrano prima Prodi, poi Napolitano, pensano, beh, l'Italia è tutta qua. Poi vanno in Vaticano, in udienza dal Papa, e pensano, ah no, ecco l'Italia che conta. Cioè vedono un tedesco vestito di bianco e si sentono davvero in Italia. Che cosa succederà adesso? Il legame oscuro tra lo spirito anarchico del pollo in sbattimento e quello monarchico di Kappa e Drago porterà a conseguenze inimmaginabili per la civiltà occidentale? E Tarek passerà a una dieta più consona al suo essere un giovane pollo scervellato? Lo scoprirete solo a partire da lunedì a mezzanotte su Radio 3 con i prossimi pavloviani allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Così, se mi dici così io mi sciolgo e mangio questa pasta asciutta. Ma domani brucco.